son venuti dallo spazio. Io dormivo nel mio letto, forse un sogno non ricordo, forse meglio se ero morto. Mi hanno torturato, hanno sperimentato, mi hanno seviziato, mi hanno anche drogato, mi hanno detto tu sei un essere Q, forse è meglio rivestirlo e rimandarlo giù. Son risvegliato nel mio letto, non so se davvero esser contento. È arrivato il mio amore, mi ha detto svegliati c'è il sole. Ma io da quel giorno ero un altro, avevo in testa delle voci, non so se erano dentro oppure mi chiamavano dallo spazio. Ero come impazzito, o forse lo ero per davvero.